ricomincia il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene assai. Credo che questo sia uno dei classici proprio del, di questo grande artista che proprio stamattina ci ha lasciato. Ieri ha avuto un concerto, poi il ritorno in albergo, stamattina colazione, poi il ritorno in camera. Ha avuto questo malore, il decesso a Montreux in Svizzera, dove si era esibito ieri sera. Avrebbe compiuto 69 anni tra tre giorni, la sua ultima apparizione a Sanremo. Napolitano, il nostro presidente dice animo schietto e delicato. Dalla sua casa di Bologna sono diffuse le sue canzoni, davvero una grossa perdita per la musica italiana. Dicevo prima, fra qualche giorno avrebbe anche compiuto il compleanno. Lui aveva scritto anche una canzone a tal proposito, la sua nascita, 4 marzo 1943, canzone che sicuramente oggi ospiteremo. Quindi il nostro saluto al grande Lucio Dalla, lo vogliamo fare così, omaggiandolo nei vari passaggi del flashback. Intanto ci fermiamo un attimino, poi On the Road con Robin Antoni, che vi dà ancora una volta il ben ritrovati in questo primo appuntamento del nuovo mese di marzo. Andrà avanti. Sei tu, sei tu, sei tu, che mi hai rubato. dato cosa? Il cuore. Cosa? Che bella che questa canzone di Mattia Bazzaro. Niente, che stavo pensando una cosa strana, no? Che quest'anno, col fatto che ci sia stato questo mese di 29, il mese di febbraio, sapete che è un anno bisesto, e gli antichi dicevano anno bisesto, anno funesto. E chissà che, no, perché troppe cose strane stanno succedendo, troppi artisti che ci lasciano, cose un po' particolari, quindi effettivamente ad alcune cose dobbiamo per forza di cause maggiore credere. 17:20 sulla radio che si sente e si vede, CRMP Radio con voi, Romy D'Antoni, anche per oggi insieme sino alle 19, quindi anche per oggi trascorreremo buona parte del pomeriggio, della prima serata insieme. Voi potete sbizzarrirvi, potete richiedere la vostra musica, potete anche vederci oltre che ascoltarci sul nostro sito internet crmpradio.it. Invece, per richiedere la vostra musica, potete anche approfittarne del nostro profilo Facebook CRMP Radio, poi eventualmente 335 5637 251. Questa è la nostra linea SMS. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in a sleep. Paradise, chissà che da oggi un altro angelo si aggiungerà, un altro cantante, un altro angelo che farà cantare un po' tutto il paradiso. il grande Lucio Dalla che ci ha lasciato, davvero una grossa perdita. Fra l'altro i nostri webmaster non stanno mai fermi, allora mi hanno comunicato che adesso non soltanto tramite il nostro sito internet potete, oltre che ascoltarci, vederci, ma anche attraverso il nostro profilo Facebook sulla nostra pagina ufficiale. Quindi scrivete CRM spazio Happy spazio Radio spazio Radio con la A naturalmente, e là la possibilità di sentirci e di vederci. Quante cose si inventano sti ragazzi, veramente sono dei lavoratori, una cosa incredibile, non stanno mai fermi 24 ore su, anche la notte mentre dormono loro pensano cosa potranno fare già l'indomani in radio. C'è Celeste Gaia. Di grigio c'era l'acqua sulla strada e l'angolo di pane profumava, quel rosso un po' sbavato mi guardava, cosa cercava? L'anello io lo guardo, mi sta stretto, se capita lo lancio giù dal tetto, mi stringo le parole dette in bocca, la nostra storia. Non sono adatta al clima, ho troppo freddo, umido un po' più di prima, entro nell'ascensore, farla a piedi se muore, ma ad un tratto mi parli e mi dici che vai al sesto piano. Carlo, Carlo, vorrei ti chiamassi Carlo, ho sempre pensato che fosse un bel nome, ma adesso io cambio. Secondo, ma ci penso, se scendo prima è chiaro che lo perdo, e fermo questa macchina infernale, così non vale. Dal quarto poi cadiamo al primo piano, ritrovo questo sguardo più vicino, è bello più di quanto mi aspettavo, è così strano. Aprono, ricordo di essere in Francia. Carlo, Carlo, vorrei ti chiamassi Carlo, ho sempre pensato che fosse un bel nome, ma adesso io cambio opinione. Verdi, verdi, mi piacciono gli occhi verdi, mi sanno di calma interiore, equilibrio, li ho sempre associati all'amore. Carlo, Carlo, vorrei ti chiamassi Carlo, ho sempre pensato che fosse un bel nome, ma adesso io cambio opinione. Verdi, verdi, mi piacciono gli occhi. Dai, ditemelo, ditemelo che la state cantando già da un bel po', da subito dopo Sanremo, no? Celeste Gaia, questa sua Carlo, qualcuno le ha chiesto chi era Carlo e ha risposto: non c'è una persona, è un nome così inventato e non esiste un Carlo. Il nome forse piaceva più di un altro e allora ha deciso così, forse suonava bene. Attenzione che poi vi parlerò di come il dottor Valentino Rossi, tra un test e l'altro, e visto che è rimasto single, sta provando così a scambiare due battute con Elisabetta Canalis. Sì, proprio lei. De nuovo a chi? Passato all'attacco il dottor Rossi. Intanto vi faccio ballare, questa sarà la canzone colonna sonora dell'estate, sarà il tormentone, a parte Michel Teló, anche questo sarà uno dei dischi che balleremo nella stagione calda. Loro si chiamano Romana e Sapienza ed è Tacata. Mira come dice mi tacata. De tacata, mueve tu culito, tacata, también el pechito, tacata, Romana esa pieza, tacata. Oye, para la gente que le guste tacata, ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también. Que basta ya, despierta muchacho, llegó el tacatac, que a todos les gusta, ay mamá, te veo atacado bien sofocado, escribiendo cositas desesperado, invento una cosa nueva, la hao. Mami. Prima vi avrei commentato, vi avrei fatto sapere questa notizia, sono un po' curioso, no? Anzi, in piccione più che altro. Stavo leggendo la notizia che riguarda per l'appunto il dottor Valentino Rossi, lui che torna a far parlare di sé, non per le sue prestazioni sul circuito, bensì per uno scambio di battute su Twitter con Elisabetta Canalis, lui dalla Malesia, il circuito di Sepang, lei da Los Angeles. Parlano di biscotti, un dolce indizio di conversazione per The Doctor. Stanno ben informati e da poco tornato single. Se pensiamo che non ha mai nascosto il suo debole per la canale, si viene quasi a dire che stia cercando di avvicinarsi a lei. L'asso delle due ruote non ha mai fatto mistero di provare attrazione per l'ex velina sarda, è proprio nel corso dello stesso Chiambretti Night in cui ufficializzò la sua storia con Marwa, confessò che la canale si aveva evitato le sue attenzioni e ora che non ha nessun legame torna alla carica con qualche innocente cinguettio. Dal canto suo Elisabetta sta vivendo una storia d'amore con Stevie U che la rende serena e felice, ma non si sa mai. Beh, lo sai, è come una goccia

The Road, Flashback. We'll be right back. sia perché oggi si stanno veramente consumando i messaggi su Facebook, su Twitter, anche da parte dei colleghi di Lucio Dalla che lo vogliono omaggiare, naturalmente è un ricordo per questo grande artista. Lucio Dalla, che poi ho avuto modo anche di vedere dal vivo in quel di Campofelice qualche anno fa, è venuto a fare un bel concerto che è vero che ha lasciato tantissimi a bocca aperta, veramente, perché è stato davvero straordinario. Poi invece vi parlerò di questo nuovo singolo di Giorgia che si chiama semplicemente Dove sei. Arriva anche il nuovo video. Me ne andrò guardandoti e lascio un'altra parte di me, ripenso alle cose che ho detto, alle frasi che ho spento e non ho saputo difendere. Ti ascolterò pensandoti e bruciano i silenzi intorno a me, rivedo le cose che ho fatto, i momenti che ho pianto e non ho saputo comprendere. Non ho saputo ascoltare. Sento le parole che non so più cancellare, i ricordi che rivivono, non so lasciarti andare come sei. Cerco nelle cose il sorriso che tentavi di nascondere a me e agli altri e manca quando mi stringevi come sei. Dove sei? Dove sei? Ti cercherò spogliandomi di tutte le ferite che ho per te. Rivivo le notte che ho perso, gli errori che ho fatto, i momenti che ho infranto le regole. Sparirò tra gli altri, ma tutto mi riporta da te. Nelle cose che vivo mi chiedo com'è che è accaduto, che non ho saputo comprendere, non ho saputo ascoltare. Sento le parole che non so più cancellare, i ricordi che rivivono, non so lasciarti andare come sei. Cerco nelle cose il sorriso che tentavi di nascondere a me e agli altri e manca quando mi stringevi come sei. Penso alle volte che mi hai detto che mi amavi, i ricordi che rivivono, non so lasciarti andare come sei. Dove sei? Questa bellissima canzone di Giorgia che lancia questo nuovo video del singolo Dove sei, che è il quarto estratto, tra l'altro è l'album Dietro le apparenze, l'anteprima sullo speciale musica di Video Mediaset, una ballata struggente scritta e composta dal compagno della cantautrice romana, si chiama Emmanuel Lo, che lo ha diretto anche, è lui che ha diretto il video. L'artista partirà in tour dal 3 marzo da Padova, dopo l'anticipazione sold out che si è tenuta a Roma il 21 gennaio alla Pala Lottomatica e a Milano il 24 gennaio al Mediolanum Forum. C'è grande attesa quindi per il ritorno di Giorgia dal vivo, con un vero e proprio tour che si protrarrà fino all'estate, eccezionalmente per la prima data a Padova del 3 marzo, quindi fra qualche giorno, fra un paio di giorni. Il concerto si è spostato dal Gran Teatro Geox alla più capiente Pala Fabris, invariati poi i giorni orari, il 3 marzo dalle 21, e i biglietti già acquistati saranno validi con le stesse modalità di fruizione. Quindi se qualcuno sta sentendo via internet la notizia, sappiate che se avete acquistato i biglietti per Padova al Gran Teatro Geox, non sarà più là il concerto, ma sarà nel più capiente Pala Fabris. Giorgia ha ideato lo show del nuovo tour partendo dalla musica con un'attenzione particolare verso i suoni del nuovo disco. Per il pubblico quasi due ore di concerto con una scaletta ricca di canzoni, da Dietro le apparenze ai classici come Di sole d'azzurro, Gocce di memoria, che sono state un po', e poi Come saprei. Sul palco con Giorgia, Sonny, Sonny Thompson, basso e voce, poi ci sarà Mike Scott alla chitarra, Millis Johnson alla batteria, Claudio Storniolo piano e tastiere, Gianluca Ballarin tastiere e Diana Winter e Chiara saranno invece le vocalist. Vediamo se ci sono delle date che possono interessare il sud, perché allora partiamo dopo questa del 3 di marzo a Padova, poi ci sarà il 5 marzo a Mantova, a Bologna il 10 a Torino, l'11 a Genova, il 13 a Firenze, il 14 a Udine, il 17 ad Ancona, il 20 a Pavia, il 24 ecco sarà ad Acireale, quindi il 24 di marzo, il 27 sarà a Napoli, il 29 a Livorno, il 30 a Rimini, poi in aprile il 20 ad Eboli, il 26 a Varese, il 27 a Saint Vincent per il Festival Babel. La cantautrice tornerà a Roma in estate il 25 al 26 giugno con due concerti alla Cavea dell'Auditorium. Stavo invece pensando, cioè con tutti questi appuntamenti uno dietro l'altro, ma come farà lei con la voce a resistere, a farsela durare per tutto questo periodo? Bah, avranno dei loro trucchettini, lo so. Mentre aspetto che tutto finisca e ti guardo perché sei perfetta, sei la cosa che più mi spaventa. Mentre togli il vestito di fretta, non rimane che la meraviglia che la tua pelle nuda risveglia. Sto precipitando, amore mio, come la pioggia sul tuo viso, come il cielo quando crolla all'improvviso. Se la tua bellezza sull'ultima giostra, come sopra due metri di onda, ogni mio desiderio si incendia. Stanno rotolando, amore mio, queste stagioni. Bellezza furiosa e nobile, quanto sa che è bella questa canzone. Vorrei volare ma non posso, e resto fermo qua su questo piano che si chiama terra, ma la terra si ferma. Appena io mi rendo conto di avere perso la metà del tempo, e quello che mi resta è di trovare un senso. Ma tu sembri ridere di me, sembri ridere di me, e tu lo chiami Dio. Io non do mai nomi a cose più grandi di me, perché io non sono come te, ma conosco l'amore. Io che ho visto come te dritto in faccia il dolore. Volare ma non posso, e spingermi più in là, adesso che si fa silenzio attorno, ma il silenzio mi parla. Devo combattere con le mie lacrime, mica con una poesia, e non c'è ordine nei letti d'ospedale. Una fotografia rivedo dritta sulle spalle la mia figura. Tu lo chiami Dio, io non do mai nomi a cose più grandi di me, perché io non sono come te. Tu lo chiami mai nomi a cose più grandi di me, perché io non sono come te, ma conosco l'amore. Io che ho visto come te dritto in faccia il dolore, e tu lo chiami. Più grandi di me, io sono come te. E oggi era Finardi, la nuova canzone presentata direttamente al Festival di Sanremo. Bella, sai che all'inizio non l'avevo capito benissimo questa canzone, poi invece ti entra dentro piano piano. Attenzione, sentite che carina questa notizia. Certo, vorrei vedere, avrei voluto soprattutto vedere la faccia di chi era là accanto a lei, perché potremmo gridare a un miracolo. Questi gli amici di una novantenne sicuramente l'hanno fatto, una novantenne cinese protagonista di un caso di morte apparente. L'anziana era stata trovata sul letto di, da un vicino di casa, esanime, come da tradizione è stata posta in una bara, tutti passavano di là, la salutavano perché la vecchietta era conosciuta, davano l'ultimo saluto. Però poi al quinto giorno, alla vigilia dei funerali, l'arzilla vecchietta si è improvvisamente svegliata, ma la cosa bella è che è andata a prepararsi uno spuntino in cucina. Cioè, immaginate un po' la scena, lei che si alza come se niente fosse accaduto, va in cucina e dice: ma è da qualche giorno che non mangio, ho una certa fame. Bring the beat in. Me, I just melt away.

sempre rimane. Ma ora toccami le mani, toccami le mani, toccami le mani, amore, toccami le mani, toccami le mani, toccami le mani, toccami le mani, toccami le mani, toccami le mani, toccami le mani. Bella formazione, eh? Questa è Via le mani dagli occhi, 18:46. Noi con i tempi, caro Rambo, siamo fatti l'un per l'altro, guarda veramente. Perché dovevo ospitare Rambo e allora lui doveva ora a questo punto andare in diretta. Ogni volta che lui deve andare in diretta c'è qualche intoppo. Abbiamo dei tempi, una cosa veramente, veramente straripante. O strabilianti, che è meglio. Ai ai ai ai. No, che stavo riflettendo sul fatto che oggi è iniziato il nuovo mese, però già comincia a sentirsi, no? Il nuovo mese, il mese di marzo. Inizia anche il fatto che le belle, oggi me ne sono accorto anche facendo la mia oretta di corsa, oggi ho sudato di più, poi ho sentito più caldo del solito. Siccome squilla il telefono, io vado a memoria, vediamo se non fa. Vediamo, volevo sentire se è lui. Aspetta che faccio una cosa, la sto facendo al volo. Aspetta, vediamo. Pronto sei tu? Pronto sei tu? Ci sono andato. Buonasera. Rambo. Buona. Beh, Rambo. Sì. Io manco risposto al telefono, ero convinto che fossi tu. E ti immagini? Tanto le sotto tu, interista. Ma dimmi una cosa, ma che sei raffreddato, no? Sì. Madonna. Che è successo? Una botta d'aria? Sì, botta d'aria, Roberto, ma non mai. Che dici? Ho detto. Ho tempo, fa schifo. Ho detto. Ma che hai capito? Ho tempo, Ho detto una botta d'aria, che hai capito? Magari ho tempo, Ai, Rambo. Buonasera a tutti, arrivederci. Questa settimana non ci siamo sentiti proprio dopo le polemiche col Milan, eccetera, eccetera. La voglia, tutti sempre che avete settimana. Ma infatti, io dico una cosa, quando il signor Galliani stava assistendo alla partita, adesso non ricordo contro chi era, e hanno dato un rigore inesistente al suo giocatore Rubinho, come mai il signor Galliani non è sceso in campo a andare a dire ma non era rigore, non era, no. La lui non l'ha fatto quando hanno dato il rigore a Pato, un rigore inesistente in quel caso, perché non scendeva giù a prendere l'arbitro e diceva ma no, non ci ridate questi rigori perché non esistono, non è. Ai. E allora, Rambetto. E vabbè, importante andare avanti, non parlare mai. Noi abbiamo da recuperare ora, giorno 7, recupereremo questa partita con il Bologna. Speriamo che arriviamo. Pezzemolo bolognese. Roberto, prossimo bolognese, Bologna 1, Juventus 3. Magari. Oh, magari, minchia, lo deve essere, no? Vabbè, sono partite che nascono, Rambo. Ma tu 1-0, ma contento. Ma io pure, l'1-0 al 92esimo, guarda, con tutta sincerità. Ma così tu vuoi, tu? No, io. Basta vincerle le partite. Roberto, sabato c'è Cefalù. Stavo parlando di Cefalù. Lo sai che devi venire a casa mia sabato, no? Sì. Vieni a pranzo a casa mia. Ma sabato Cefalù gioca fuori, vedi? Capo d'Orlando, no? È la prossima che poi c'è Santo Stefano. Sì, giorno 10. La prossima. Poi vedremo, ci mettiamo d'accordo. Per la prova, io pensavo fosse. E che facevo? Basta che sardo, basta con lui. Non ti preoccupare, tu cosa vuoi mangiare? Mi fai... No, no, la patata la partita, che facevo? No, nel calcio queste cose non devono esistere. A 8 punti siete! Tanto, siamo a 8 punti, 8 punti dalla seconda, quindi va bene così, dai. Ah, ma la partita ha mai mollato? Sì, ha mollato. Ha perso anche il portiere titolare, ho saputo che si è infortunato. Gli sai tutti, sai, no? Sono preparato, Ram. Un giornale Liegi. No, me l'hanno detto. L'altro giorno ero al campo ad allenarmi e ho sentito alcune notiziole. Senti, mi saluti Nadia, per favore. Che ciao, deve... Nadia! Cioè, quando arrivi è come se arrivasse il sole. Ciao a tutti! Roberto, posso dire una cosa? Cioè, tu puoi dire quello che vuoi. Noi se sabato mangiavamo contro la Sinagra, potevate... ci mettevamo un buono in graduatoria. In classifica, quale graduatoria? In graduatoria, in classifica, lo stesso. Peccato, abbiamo pareggiato purtroppo. Vabbè, niente ci fa, dai, ma lottate per la retrocessione. Però no, siamo tutti là per là. Quindi ancora c'è la possibilità. Perché c'è 34 Malertina, 42 Cefalù. Poi c'è Sinaga, ce n'ha 31. Se noi vengiavamo già erano 2 punti in meno. Vabbè, dai, non ti preoccupare. Un punto in meno già rimaneva a 30. E voi salivate. E già noi ce ne andavamo a 29, invece 27, 27. Potevate andare a fare i... Vabbè, ma sempre i playoff li fate. Però, no, noi non vogliamo fare playoff perché abbiamo problemi nel campo. Ai. E poi per tu fare la promozione ci vogliono i sordini. Vogliono quando fai l'iscrizione 15.000 euro. Assai, lo so. Cioè, già siamo un luogo, assai. Ma sai quanto costa un campionato fare promozione? Soldini ci vuoi. Sì, lo so. Senti, lo sai, hai saputo la notizia oggi della scomparsa di Lucio Dalla, il cantante? Sì, ho sentito poco fa te quando parlavo. Mannaggia, è una grossa perdita questa qua. Sì, questo è un grandissimo cantatore. Ma tu conosci qualche canzone di Dalla? Il canzonello, io mi ricordo con Roberto. Tu, a te devono darti solo la musica pompante, vero? È un calcio. È la pallavolo femminile. È la pallavolo femminile, devono darti. Roberto, domenica giochiamo con Spezzano. Ninja Spano che vincivo a mare. Ai. È difficile come partita, vero? Abbiamo vinto fuori casa. No, loro c'erano 21 punti, noi ce ne abbiamo 15, perciò. Dobbiamo vincere tutte forze. Per forza bisogna vincere. Va bene, Rambo. E allora noi ci risentiremo domani. Forza Juve, vicino. Sempre. Anche il rango nero di Nesce non si muore. Rambo, posso dire domenica? L'ultima cosa, dimmi. Domenica c'è Inter Catania. Secondo te come finisce? 2-1 per il Catania. Lo sai che c'è pure Palermo Milan? Palermo doveva perdere tempo, allora sempre festa. No, a Palermo sempre ha fatto belle partite. Tu, secondo me finisce con pareggio, Milan non mi vede, c'è a cappotto. Cioè, sì, che pine, Palermo 2 e Milan 0. Anche 1 va bene, dai. No, 2-0 finisce. 2-0. Il Milan secondo me casca. Ai, poi ci dobbiamo andare noi. E Inter Catania, secondo me o finisce con pareggio, o Catania si va a futtare a Dino. Il Carlo che cantava non la facciava, questa te la stai inventando tu, il gallo che cantava non affacciava. No, ma questa tu te la sei inventata. Rambo, chiamami la pubblicità. Va che siamo in ritardo. Flashback. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato. L'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Così lei sto sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, m'aspettò come un dono d'amore fino dal primo mese. Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma, le strofe di taverna le cantò a mia nonna, e stringendomi al petto che sapeva, sapeva di mare, giocava a far la donna con il bimbo da fasciare. E forse fu per gioco o forse per amore che mi volle chiamare come nostro Signore. Della sua breve vita il ricordo più grosso, è tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. Che ricordi ci ha lasciato. Forse una delle cose che può consolarci sono proprio queste canzoni, questi ricordi fatti di musica che il grande gladiatore, perché da gladiatore se n'è andato veramente, Lucio Dalla, e credo che uno tra i più scossi di questa notizia è stato sicuramente Pier Davide Carone. Ancora non si sente di parlare, qualcuno ha cercato di raggiungerlo. In un giorno come questo siamo sicuri che capirete la scelta di rinviare a data da destinarsi il mini live che era previsto domani a Roma, il 3 marzo a Marcianise, il 4 marzo a Palermo, il 5 marzo a Milano. Pier Davide ha deciso, naturalmente credo sia opportuno rinviarlo, veramente toccato. Effettivamente l'ultima apparizione Lucio Dalla la fece in quest'ultimo Sanremo con Pier Davide Carone, non so se avete presente lui che dirigeva l'orchestra, una interpretazione davvero molto molto bella. Ti toccano queste notizie. Oggi ho voluto dedicare un'intera giornata al grande artista scomparso, anche Jovanotti, che su Twitter scrive parole incredule, non ci posso credere, stenta a crederci. Verdone, anche Carlo Verdone, l'aveva sentito pochi giorni fa e dice di essere orgoglioso di avergli dedicato un film, il film Borotalco. Anche il presidente napoletano ricorda la voce forte originale che ha contribuito a rinnovare e a promuovere la canzone italiana nel mondo. Un po' tutti i grandi artisti hanno scritto parole e sicuramente sono stati toccati, gente anche del calibro di Gianni Morandi e di De Gregori, con le quali duettò in diverse canzoni. Bene, noi chiudiamo così con quest'ultimo ricordo di Lucio Dalla. 4 marzo 1943 la sua data di nascita, quindi fra qualche giorno avrebbe compiuto 69 anni. Probabilmente anche in quell'occasione dedicheremo ancora tanto spazio a questo grande artista che purtroppo stamattina è volato su in cielo e comincerà a cantare da oggi con gli angeli. Da Roby D'Antonio è tutto, questo momento così molto delicato chiuderei la puntata di oggi. Oggi giovedì 1 marzo, noi ci risentiremo ancora domani, ancora dalle 17 alle 19. A questo punto è davvero tutto, un bacione, e volevo salutare ancora i ragazzi, tutti quelli che seguiranno la puntata in replica da mezzanotte alle 2. Davvero tutto, alla